Allora, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti voi che siete in ascolto di questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 26 ottobre. Questa sera vi leggo la scaletta che abbiamo in programma. Ci saranno, come sempre, diciamo un apparato musicale non indifferente di musica punk, hardcore e autoprodotta, e inoltre degli interventi che abbiamo, diciamo, sintetizzato in tre blocchi. Il primo è ogni giorno nuove trovate della società carceraria, poi abbiamo una duplice disumanizzazione o sulle conseguenze del sistema Israele, quindi ancora sulla questione palestinese, contro il partito dell'insurrezione, uno sguardo all'appellismo negli Stati Uniti. È un contributo, diciamo, un articolo, è il titolo di un articolo che andremo così un po' a vedere. E quindi adesso ascolteremo un po' di musica e poi ci risentiremo in voce. Thank you. Ecco, allora, prima di passare agli argomenti che avevamo preannunciato, vi voglio ricordare che questo è un programma radio che va in diretta, sono le 20:14 di questa sera. Stiamo trasmettendo da Radio Onde Furlane in FM sui 90 per il Friuli, in streaming altrove. Potete anche ascoltarci in podcast se lo state facendo, probabilmente o siete collegati al nostro blog o al nostro canale Telegram, i cui termini daremo in finale. Ultima cosa, questa è uno show che abbiamo messo in piedi noi. E siamo per lo più appunto dell'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e di Trieste e trasmettiamo, non l'ho detto, da Udine, dagli studi qui di Onde Furlane. E ci sono alcuni aggiornamenti dell'ultimo momento di questa settimana, di questi giorni che vogliamo dare, che riteniamo importanti, e me li vado a dare. Sono tre notizie che riguardano innanzitutto l'istanza per la revoca dal 41 bis di Alfredo Cospito è stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Questo è successo lunedì e quindi Alfredo rimane al 41 bis nel carcere infame di Bancali. Peraltro la situazione di Bancali è oggetto di agitazioni, controinformazione che si sta facendo sul territorio. In Sardegna è uscita una lettera di altri detenuti, detenuti del 41 bis, semplici, insomma, i cosiddetti comuni che a loro volta si lamentano di cose, delle solite cose che succedono dentro queste strutture. Come dicevo, il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza della difesa di Alfredo. Vado a leggervi un comunicato che è rintracciabile sul rovescio. 6 mesi fa, durante lo sciopero della fame oltranza, questi pareri favorevoli alla revoca del 41 bis, si sta parlando del parere favorevole che aveva dato la struttura dell'antiterrorismo, avevano questi pareri favorevoli, manifestarono la dinamica contraddittoria interna alle istituzioni e all'apparato repressivo innescata dal movimento di solidarietà internazionale. Attualmente esprimono ancora una volta come la mobilitazione abbia reso evidenti e consolidato delle contraddizioni nell'organismo statale. Questa è la strada su cui continuare, rendendo il costo politico di tali contraddizioni sempre più alto. Nel respingere le schifose calunnie dei tribunali sul fatto che gli anarchici possano avere dei capi o ricevere ordini, non ci nascondiamo che sulla pelle del compagno si sta giocando un monito di deterrenza per tutti noi. Quel monito, oggi come ieri, va rispedito al mittente con la massima fermezza. Gli anarchici non hanno bisogno di farsi istigare, orientare da alcun leader prigioniero. Ci riuscite benissimo voi. Solidarietà rivoluzionaria con Alfredo Cospito e tutti gli anarchici e rivoluzionari prigionieri. Rovesciamo la guerra dei padroni in guerra contro i padroni. Secondo aggiornamento è invece l'esito della sentenza. Cioè la sentenza d'appello appunto dell'appello che era stato fatto sulla un'operazione repressiva che riguarda i compagni del Trentino che stanno in Trentino, quindi sempre lunedì 23 si è tenuta l'udienza di appello dell'operazione cosiddetta senza nome. C'erano delle accuse pesanti in primo grado per favoreggiamento della latitanza di Juan e fabbricazione di documenti falsi, e poi c'era il colmo dell'accusa di come si chiamava? Violenza, sì, no, è stata ridotta a violenza privata, era un altro tipo di accusa per Massimo, che aveva tentato di leggere un comunicato a una radio privata nel 2020 sul massacro che era stato fatto. Era tentativo di estorsione, sì. Ecco, e quindi la compagna è stata condannata per solo favoreggiamento a 8 mesi. In primo grado era 2 anni, Massimo è stato condannato a 6 mesi e addirittura Juan è stato assolto, quindi questo è l'esito dell'appello. Ascoltando i Propagandi, l'album Gift, prima abbiamo ascoltato Resisting Tyrannical Government, mentre prima, che non avevo presentato, avevamo ascoltato gli Extinction of Mankind, band inglese, avevamo ascoltato alcune canzoni dal lato B, tratte dal lato B dell'album Storm of Resentment. Let you know that we're all lonely. So here's the last call for regret. Eccoci di nuovo in voce. Ultimo aggiornamento che vi voglio dare per questa puntata di Zardins Magnetics, salvo breaking news, in diretta, come sempre, può succedere quindi che arrivino aggiornamenti, ma dicevo, aggiornamento sul grande rilievo mediatico che è stato dato questa notizia, cioè della cattura di Stecco venerdì sera. Inutile ritornare appunto sul contenuto di queste notizie diffuse dalla controparte. Per il momento non ci sono aggiornamenti, diciamo, di controinformazione sulla questione, quindi io mi limito solo a, oltre che a darvi diciamo, gli aggiornamenti sui presidi in solidarietà che verranno fatti, su altre iniziative, sull'indirizzo attuale del compagno, mi limito solo a un inciso. Personalmente io tengo questa cosa che è successa non come un diciamo una sì, come i toni trionfali vorrebbero far indurrebbero a pensare, diciamo, i toni trionfali dello Stato indurrebbero a farci pensare, ma come sempre, come le altre volte che questo compagno, insomma, c'è particolarmente vicino, abbiamo condiviso delle piccole, insomma, piccole, ma neanche tanto piccole, lotte, quindi ogni volta è stato per me personalmente un momento da cui trarre degli apprendimenti più che degli insegnamenti, quindi è un compagno che è stato 2 anni tenuto in scacco nei tempi in cui siamo, perché sono tempi con sorveglianze che vanno sono capillari, sono è per tutti, non solo per quelli che vogliono essere sovversivi, diciamo, che vengono così caratterizzati come sovversivi. E quindi è un compagno che 2 anni è riuscito a tenere in scacco un apparato come quello, appunto, dello Stato italiano, un Stato autoritario, aggressivo, sia sul fronte esterno che quello interno. Nonostante tutto, lui con i mezzi, appunto, di una lotta autogestita, di uno scontro con lo Stato fatto in prima persona, senza apparati, senza direzioni strategiche, e quindi io lo considero quasi una vittoria, nel senso che è un esempio di quello che si può riuscire ancora a fare nel 2023 se si ha l'intenzione di rovesciare questo stato di cose, non solo trasformarlo ma rovesciarlo. Dunque, domenica ci sarà un secondo saluto fuori dal carcere, che non l'ho detto, è Sanremo. Si tratta appunto del carcere di Sanremo. Per scrivergli dovete indirizzare a Luca Dolce, casa circondariale Sanremo, strada Armea 144 18038 Sanremo. Le questioni legali, le questioni, diciamo, tecniche, vengono aggiornate sul rovescio. Probabilmente sarà trasferito da Sanremo in una struttura ad alta sorveglianza, e quindi vedremo, insomma, poi la cosa si stabilizzerà. E ancora una cosa che voglio dirvi è che è stata diffusa da Radio Blackout questo appello a inviare messaggi solidali a Stecco, facciamogli sentire la nostra vicinanza e solidarietà, nel senso che appunto loro, la radio prende gli audio e lì poi al presidio verranno mandati con l'impianto. Quindi potete inviare messaggi vocali al 346 66 73 263, che è il cellulare di Radio Blackout di Torino. Questi verranno raccolti e rilanciati dall'impianto durante il presidio in modo che il compagno possa sentirli. Per organizzare la raccolta vi invitiamo a inviare i messaggi accompagnati dal testo per stecco entro le ore 18 di sabato 28 ottobre. Ecco, quindi se volete far sentire la vostra voce a Sanremo senza appunto nell'impossibilità per magari per noi altri qui da Udine di raggiungere Sanremo, ecco, questo è un mezzo che può essere utile. Homophobes, Aryan nations and hammer skins. You can wear my nuts on your Nazi chins. I love a man in uniform. And just what exactly are the great historical accomplishments of your race that make you proud to be white? Capitalism, slavery, genocide, sitcoms. This is your fucking white history, my friend. So why don't we start making history worth being proud of and start fighting a real fucking enemy? Swastikas and Klan robes. Sexist, racist, homophobes. This one's for the master race. My brown power ass in your white power face. Kill them all and let a Norse god sort them out. At the turning point in history, some fuckface recognize that knowledge tends to democratize cultures and societies. So the only thing to do, when not by the finest, to freeze, clerics and delete. The rest resign to serve, cause if the rabble heard the truth, they organize against power, privilege, wealth. For the few and no one else. Did it occur to you? It's exactly the same today. Prospects for authentic democracy depend on something else. They depend on how the people in the rich and the privileged societies learn some other lessons. For example, the lessons that are being taught right now by Mayans and Chiapas. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, arriviamo a queste trovate quotidiane dei boiacci di Stato, e specificamente ci riferiamo, stasera parliamo di queste nuove progettualità, di questi piani segreti, tra virgolette, del governo, che riguardano la costruzione di ulteriori CPR, oltre a quelli che ci sono già. E appunto c'è questo decreto legge dello scorso settembre 2023, che appunto prevede la costruzione, insomma il governo parlava di un CPR in ogni regione, e prevede la costruzione di nove strutture ex novo, oltre alla ristrutturazione di due già esistenti, che sono però sì, diciamo Malin Arnese, Torino e Milano. E appunto oltre a questa cosa terribile di voler costruire ulteriori CPR, ulteriori lager di Stato, c'è questa trovata, diciamo, questa pensata, e cioè di viene espressamente, insomma, indicato in questo progetto il fatto di costruire le strutture per la detenzione amministrativa sul modello del panopticon, e quindi appunto così, utilizzando questo modello di controllo assoluto, per cui la struttura è circolare, i detenuti non si possono vedere uno con l'altro, ma il guardiano, i guardiani in posizione centrale possono avere il controllo totale, assoluto di tutti i detenuti. E per così realizzare questi progetti scellerati, appunto il governo intende praticamente utilizzare le forze del Ministero della Difesa, quindi il genio militare, l'impiego delle forze armate e questa Difesa Servizi SPA, questa società che è direttamente collegata appunto con l'esercito, e in modo da evitare, insomma, lungaggini nella costruzione. E niente, beh, vi leggo delle cose da un articolo che è apparso sul Domani, che ha fatto una sorta di, così, diciamo, ricerca su questi progetti del governo. Gli edifici che comporranno i CPR saranno disposti a cerchio. Questa è almeno l'idea messa nero su bianco nei primi progetti presentati, cui ha partecipato anche la direzione dei lavori del Demanio, oltre che i vigili del fuoco, che dipendono dal Ministero dell'Interno. Appunto, sarà costituito da un nucleo centrale composto da moduli abitativi, ognuno da 2,4 metri per 6 di altezza, assemblati tra loro. E alle spalle di uno dei lati del panopticon saranno realizzati gli altri locali, sempre con prefabbricati: lo spazio per la Polizia di Stato, per il Corpo di Guardia, per i Vigili del Fuoco, per il personale dell'azienda che otterrà la gestione del centro. E poi ogni modulo, è previsto che ogni modulo sia rinforzato con delle blindature, appunto blindature sul modello dei serramenti di sicurezza penitenziario, per resistere a eventuali rivolte e tentative di vandalismo, sì, di distruzione. E inoltre appunto emergono anche le località selezionate da Piantedosi e Crosetto: Ferrara, Castel Volturno, Bolzano, e poi in Toscana Aulla, e vabbè, e poi anche altre zone. Comunque le indicazioni governative sono che i CPR siano costruiti sempre in zone scarsamente popolate quindi più facilmente sorvegliabili, e che in modo da dissuadere le fughe. E allora, vediamo l'elenco ufficiale dei luoghi selezionati, trasmesso al Ministero dell'Interno. Allora, abbiamo detto ristrutturazione di Torino e Milano, e poi le altre 9 strutture nuove sono a Bolzano, nella periferia sud, vicino alla frazione San Giacomo, dove c'è il piccolo aeroporto e un'area produttiva, e poi delle zone residenziali, ma poche. Poi in Liguria, a Diano Castello, provincia di Imperia, in un'area dove sorge una caserma, ad Albenga, nel Savonese, proprio in un'altra caserma, ex caserma Piave. In Toscana, come dicevo prima, alle porte di Aulla, provincia di Massa Carrara, e poi nella vicina Emilia Romagna, a Ferrara, nell'area dell'ex aeroporto militare. E poi nelle Marche viene fatto il nome di Falconara Marittima, in una via a ridosso dell'uscita autostradale, e poi Catanzaro, Castel Volturno e Brindisi. Tra l'altro, Castel Volturno in Campania, e queste menti criminali hanno pensato a un'area di campagna stretta tra Grazianise e Villa Literno, appunto, area insomma dove c'è una densità di popolazione migrante, spesso vittima di sfruttamento, e che chiaramente con la presenza così vicina di un CPR sarebbe esposta insomma a un rischio, e oltre alla paura anche a un rischio molto forte insomma di essere catturati. E questi sono appunto le trovate per carcerarie in senso generale, che ogni giorno spuntano. Il brano Io non ci sarò degli Old Ways, band piemontese, Questo era un brano tratto dall'album Hardcore, uscito 20 anni fa, mentre prima di sottofondo abbiamo ascoltato i Civilized Society. Abbiamo ascoltato qualche brano dell'album che si intitola Violent Sax. Eccoci, sì, siamo di nuovo, prendiamo di nuovo la parola per un altro argomento di questa puntata di stasera di Zardins Magnetics. Siamo quasi a metà della puntata. Secondo noi era così, sembrava interessante, tirava fuori diverse questioni questo articolo che è uscito un paio di settimane fa su un blog statunitense che si chiama Shins from the Atlanta Forest. Il titolo è Against the Party of Insurrection, a Look at Appellism in the US, ovvero contro il partito di insurrezione, uno sguardo all'appellismo negli Stati Uniti. Prima di addentrarci volevo chiarire questo termine appellista, che è un po' indigesto. Si riferisce appunto a una serie di, cioè a una, in particolare a un appello che era stato pubblicato, insomma era stato trovato questo mezzo di chiamare, diciamo, a una determinate linee di determinati scenari, ecco, di lotta nell'ambiente francese, ecco, più che altro dell'autonomia francese, insomma quelli che erano alcuni esponenti anche del situazionismo degli anni, insomma, 80-90. Siamo arrivati appunto ai cosiddetti ticunisti, erano stati fatti all'inizio degli anni 2000, insomma era uscito un saggio prima appunto su questo, abbiamo parlato altre volte, adesso insomma non mi dilungo, sono questi ecco, sta parlando di questa componente di movimento qua, ma soprattutto si parla del riflesso di queste, diciamo, proposte francesi negli Stati Uniti di oggi, degli anni 20 del 2000. è per questo appunto che si parla di appellista, è un termine che in Italia non si è mai sentito, ticunista forse qualcosa in più, e diciamo per sintetizzare sono quelli del della comunità invisibile, no? Insomma, influenze varie che vanno da Giorgio Agamben a Mario Tronti, altri anche, no? Nell'ambito italiano. Queste influenze si sono riflesse anche nell'ambiente, diciamo, anche magari dei college degli Stati Uniti, non solo. Questi compagni che tengono questo blog che vi dicevo, Sheens from the Atlanta Forest, hanno partecipato a questa lotta concretamente della difesa di questa foresta, insomma nei dintorni di Atlanta, negli Stati Uniti del Sud, hanno avuto delle grane, ecco, diciamo così, con appunto determinati esponenti locali che si rifacevano a queste teorie. Tutto può essere anche per noi indifferente, oltre che non voler dire assolutamente nulla a noi, magari però ci può essere utile ricavarne quello che può essere un'indicazione di rotta per noi, per come invece ancora una volta ribadire quello che è magari la differenza, ecco, tra un adesso però non parlo a nome di Assemblea contro il Carcere, parlo individualmente, quello che può essere una prospettiva invece anarchica rispetto a quella che appunto questa prospettiva anarchica non è. Però è un fatto che negli Stati Uniti queste componenti si definiscano anche anarchiche, creando anche qualche equivoco e creando incomprensioni dovute al fatto che appunto tendono anche a non definirsi, ecco, più che altro hanno questa strategia di intervenire in modo deciso, anche facendo in modo che la lotta diventi una determinata lotta, possa diventare anche uno scontro, ecco, arrivare a uno scontro, coinvolgere il maggior numero di persone possibili, e poi però appunto con delle finalità che non sono quelle che normalmente sono portate avanti le componenti anarchiche. Sì, un aspetto di cui parlo in questo articolo è che bisogna analizzare le dinamiche concrete con cui chi ha scritto l'articolo è venuto, insomma, ha avuto a che fare, e ai metodi che sono stati condotti, più che alle teorie, perché, ripeto, è un discorso un po' sfuggente. È un discorso un po' sfuggente quello che appunto è la teoria di questi ticunisti. Magari noi possiamo avere anche molte perplessità, più di una perplessità su certi toni, su certi accenti che ha questo articolo, o cose che non, appunto, ripeto, sul quali non abbiamo anche niente da dire, non so, ma come dicevo prima, ci permette di invece evidenziare il modo di procedere, che invece è quello che caratterizza il metodo anarchico. And if you make the footlights, yeah! come dicevo, è una tendenza che è spesso negata, no, dagli stessi componenti, per cui appunto occorre rifarsi le dinamiche, i metodi più che la teoria. E in questo opuscolo di cui parliamo viene ad esempio spiegato come viene portata avanti questa politica del ritorno alla Terra, e nella fattispecie appunto nel locale, appunto la zona di Atlanta in Georgia, ma che ovvero questo comporta il fatto che la Terra si intende è una terra dei nativi, sì, dei nativi americani, che è stata naturalmente espropriata, portata via dai bianchi, dagli anglosassoni e dai capitalisti, dei padroni, insomma, che sono arrivati e se la sono arraffata, hanno fatto un disposto come volevano e poi l'hanno per di più anche battezzata. E c'è questa politica del ritorno alla terra, ovvero di ritorno alle origini, riappropriarsi di una vita più semplice, più insomma, un ritorno appunto al coltivare sussistenza, senza sfruttamento, insomma, senza concentrazione, senza accentrazione di potere, eccetera. Ma questa politica si scontra con le rivendicazioni, con quelle che diventano rivendicazioni neocoloniali sulla terra indigena, cioè senza tener conto delle istanze reali dei nativi indigeni, che appunto non necessariamente hanno questa prospettiva, la prospettiva di questi cosiddetti appellisti. Vabbè, poi c'è questa tendenza, questa indicazione generica, anche generale, a costruire qualcosa in comune, che può essere sia affittare sia appunto acquistare spazi, proprietà, proprio nell'ottica appunto di questo ritorno alla terra, ma anche nell'ottica di un quartiere, di prendere appunto possesso di un quartiere, ma con questi metodi qui, che cioè o affitto o acquisto con contratto appunto di proprietà, che dimostrano che la loro progettualità in realtà è blanda, no? Perché si ritorna ai fine giustifica i mezzi, no? Cioè i mezzi sarebbero il contratto di proprietà, il fine sarebbe appunto prendere possesso di un territorio, ma se i mezzi sono quelli dello stesso sistema che si sta contro cui si sta lottando, cade il palco, come si dice. Ci sono inoltre vengono riscontrate degli approcci autoritari, difficili, anche se sono sfuggenti, difficili da inquadrare, per cui c'è questo concetto di composizione, che appunto è eredità dell'operaismo italiano, e di fatto diventa uno strumento per fabbricare un obiettivo comune presunto, e di fatto passare sopra invece le differenze fra le varie componenti di una determinata lotta, di una determinata istanza di lotta, e questo poi è appunto funzionale a passare sopra i dissidenti su questioni specifiche. Ultima cosa che volevo dire, così evidenziare, era poi la questione del razzismo, che appunto negli Stati Uniti degli anni 20 è tutt'altro che irrilevante, cioè la componente che appunto qui viene ridotta sulla scorta appunto di questa lettura dell'operaismo, dell'operaismo italiano e insomma i discendenti e l'approccio filosofico di Agamben, eccetera, e il razzismo appunto passa in secondo piano, è ridotto a un effetto del capitalismo, ovvero tra le tante disgrazie che porta il sistema capitalistico, c'è anche il razzismo che, abbattendo il capitalismo, potrebbe scomparire, no? Quindi c'è l'obiettivo primario è sempre quello, diciamo, socio-economico. E questa è anche questa una forse no forse questa è un errore di prospettiva, nel senso che sicuramente il capitalismo si appropria, insomma, trae vantaggio del fenomeno del razzismo, ma il razzismo viene, insomma, prima del capitalismo, è una componente dei rapporti tra le comunità, tra le alterità, ecco, quindi non può essere ignorato, ecco, in qualsiasi tipo di rapportarsi fra le varie componenti di un, come diciamo prima, di una determinata istanza di lotta. Ultimo, ecco, per arrivare, ecco, tutto questo per arrivare al fatto che a evidenziare come, appunto, quelle che sono il programma, appunto, appellista o ticunista, o come l'abbiamo definito, è un programma, appunto, che pretende alla fine di dare delle indicazioni soprattutto, appunto, con questa ossessione, inoltre, a uno stile anche linguistico che possa essere compreso da questa gente comune fantomatica, no? Perché appunto ha questa prospettiva di poi andare a dirigere questa gente comune, a dargli, appunto, dargli programma, da manovrarla, ecco, in parole povere. Tutto diverso quello che abbiamo cercato anche altre volte da questi microfoni di delineare, quello che era una progettualità, no? Quello che fanno gli anarchici, cercano di farlo quantomeno, è non dare programmi, non dare così prediche, ma esporre le loro ragioni e sperare, le loro ragioni e i loro metodi, i loro mezzi, insomma, sono più importanti dei fini che raggiungono o meno, sperare con quello di permettere a chiunque di provare, insomma, a mettere in moto questi mezzi a loro volta, ecco, a spingerli a superare l'impasse, insomma, il silenzio, anche l'immobilismo, la paura, eccetera, insomma, a cui, insomma, sono sottoposti da quello che è il dominio statale. Ecco, e io mi fermerei qua per questa lettura, ecco, che abbiamo fatto stasera sul partito dell'insurrezione. Il gruppo che abbiamo ascoltato in sottofondo si chiama 25, l'album che abbiamo ascoltato si chiama Exit, Voice or Loyalty, mentre prima dell'intervento vocale abbiamo ascoltato il brano Not Our Kind degli Off di Los Angeles, e adesso andiamo ad ascoltarci un altro loro brano che si intitola Johnny Can Come Home. We'll be right back. Sì, e continuiamo anche questa sera su Zarniz Magnetics a parlare della questione palestinese e di non tanto di ciò che sta succedendo, perché insomma ciò che sta succedendo, diciamo, sì, lo potete leggere e ascoltare, insomma, continuamente durante la giornata, ma più che altro così proporre degli approfondimenti, delle riflessioni non solo sulla questione palestinese e sulla lotta del popolo palestinese, ma anche su ciò che rappresenta, diciamo, lo Stato di Israele. Una specie di frontiera, insomma, una specie di laboratorio, ecco, portato alle estreme conseguenze di che cosa significa costruire uno Stato. E allora, così nell'anteprima che ha ricevuto, insomma, chi riceve le mail di promozione della trasmissione, parlavamo di questo articolo, una duplice disumanizzazione o sulle conseguenze del sistema Israele. Si tratta di un articolo del 2004, sì, un articolo, un brano, insomma, di un testo di Michel Warszawski del 2004, che si intitola, questo testo, A precipizio la crisi della società israeliana. Quindi un testo relativamente recente, insomma, che analizza la società israeliana, ma io volevo alternare alcune letture da questo testo con altre letture da un testo di Mahmoud Darwish, che vi abbiamo proposto ripetutamente in queste settimane, e un testo del 1973 che si intitola La patria tra la valigia e la memoria. Nell'ambito della colonizzazione israeliana, i palestinesi, non più riconosciuti come comunità, sono ridotti a un problema ambientale, un ambiente che viene dislocato o ripulito secondo le esigenze dell'esercito di occupazione o della colonizzazione galoppante. Con la seconda intifada e con il mito della guerra di sopravvivenza, questa tendenza si è fortemente aggravata. A partire dai primi mesi del 2001, l'intera popolazione palestinese è rinchiusa in zone e microzone, senza poter comunicare normalmente da una zona all'altra. Il blocco instaurato all'inizio del processo di pace, tra virgolette, si è trasformato nell'accerchiamento di un centinaio di città o di villaggi. A parte i taxi collettivi che fanno la spola fra le diverse zone e le ambulanze quando non vengono fermati ai posti di blocco, da due anni non si vedono quasi più automobili palestinesi nelle strade della Cisgiordania. I prodotti agricoli possono uscire dai villaggi e i prodotti industriali entrarvi, solo raramente. La vita economica è interamente smantellata, come lo sono la vita familiare e in generale i normali rapporti umani. Per gli scolari dei villaggi andare a scuola è un'avventura quotidiana, per gli ammalati l'ospedale è una meta che si può raggiungere solo dopo aver accuratamente preparato un itinerario che aggiri gli sbarramenti e preveda fino a 5 taxi collettivi e parecchi chilometri a piedi attraverso i campi, con una probabilità su 2 di arrivare a destinazione. Quanto a lasciare il paese, solo pochi privilegiati hanno il diritto di farlo. Una popolazione di circa 4 milioni di persone è letteralmente imprigionata per garantire la sicurezza degli israeliani e soprattutto per costringerla a capitolare e ad accettare le generose offerte di Barak o di Sharon. Parliamo di Ariel Sharon. Per le autorità militari non esistono infatti ammalati, studenti, nonne morenti, ma un popolo di terroristi che bisogna domare o scacciare. Per l'esercito israeliano non vi sono feriti, ma terroristi. Non vi sono medici, ma terroristi travestiti. Non vi sono ambulanze, ma automezzi camuffati da ambulanze che trasportano terroristi ed esplosivi. I membri della nona missione civile francese in Palestina, nel febbraio del 2002, hanno avuto occasione di farne esperienza diretta quando a un posto di blocco nella striscia di Gaza hanno udito una voce proveniente da un altoparlante installato in cima a una torretta che gridava in ebraico. Gli uomini a destra, le donne a sinistra, in riga per 5, in ginocchio. e solo dopo essersi inginocchiati potevano passare. Costringere uomini e donne ad inginocchiarsi, a correre nudi, a strisciare nel fango, marchiati sul braccio, sono altrettanti esempi di umiliazioni gratuite di cui parlano abbondantemente i media, che non hanno come pretesto la sicurezza. La sistematica disumanizzazione del colonizzato comporta inevitabilmente la disumanizzazione del colono e della sua società. Il soldato israeliano, il colono che gode di una totale impunità, ma anche la brutalità del discorso politico dominante, hanno ormai contaminato la società israeliana. La violenza, come l'inquinamento, non si ferma alla linea verde, lo dimostrano le statistiche sulla criminalità in Israele, soprattutto quelle sulla violenza domestica. Quanto ai soldati, la cui età media è 21 anni, essi sono collettivamente e individualmente il potere, un potere assoluto su circa 4 milioni di esseri umani. Da quasi 2 anni ormai, nuove disposizioni conferiscono al soldato le prerogative di ufficiale di polizia, giudice, esecutore di sanzioni penali e, se ne ha voglia, di educatore. Sono tutti ruoli che è possibile vedere esercitati da questi soldati appena usciti dall'adolescenza, nelle decine di posti di blocco che regolano la vita degli abitanti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ai posti di blocco i soldati non parlano né l'arabo né l'inglese e neppure l'ebraico. Urlano delle onomatopee gesticolando con i loro M16. A forza di urlare addosso agli indigeni, i soldati israeliani perdono progressivamente l'uso della parola. Quando tornano alla vita civile in Israele hanno sempre più difficoltà a ritrovarla. È facile immaginare che dialogo possono avere con i loro genitori, con le loro compagne e più tardi con i loro figli. Durante la guerra del giugno 1967, molti soldati israeliani si meravigliavano che i palestinesi avessero conservato la memoria e il ricordo della patria perduta. Si meravigliavano ancora di più che i bambini nati dopo il 1948 fossero ancora attaccati a quella patria. Un soldato israeliano ha raccontato che, entrando in un campo profughi, era rimasto sconvolto dal fatto che gli abitanti continuassero a organizzarsi e a vivere come prima del 1948, ossia divisi per clan e paese d'appartenenza, stesso paese, stessa strada. Perché? Non riuscivano proprio a capire, questi soldati. Erano passati 19 anni e continuavano a dire: siamo di Bir al-Sabi. Un soldato mi ha raccontato che soltanto un giorno in vita sua si era sentito straniero in Palestina, quando era entrato in un paese arabo in Cisgiordania dopo la guerra del 1967. Era in uniforme e per strada aveva visto una bambina che lo guardava in modo da fargli tremare la terra sotto i piedi. Da quegli occhi, da quello sguardo inspiegabile, si era reso conto che lui era un occupante. Non aveva nascosto lo stupore per il netto rifiuto che leggeva negli occhi della ragazzina e si era chiesto da dove le venisse la memoria. Chi le aveva insegnato che aveva una patria? Chi? L'israeliano sente inconsciamente che l'equazione palestinesi uguali nazisti è falsa. Tale è la potenza militare di Israele e la sua schiacciante superiorità nei confronti dei palestinesi che diventa piuttosto difficile per l'israeliano identificarsi con i miseri ebrei di Varsavia e Vilna e più ancora con i combattenti del ghetto di Varsavia o con i gruppi di partigiani in Bielorussia. Si verifica allora un orribile, perverso rovesciamento di posizioni. Il continuo riferimento al genocidio degli ebrei d'Europa e l'onnipresenza delle sue terribili immagini fanno sì che, se la realtà dei rapporti di forza rende impossibile adottare il comportamento delle vittime ebraiche, si adottano allora, di solito inconsciamente, i comportamenti dei massacratori del popolo ebraico, I palestinesi vengono marchiati sul braccio, costretti a correre nudi, ammassati dietro fili spinati e torrette di guardia. Per un breve periodo sono stati usati persino cani pastori tedeschi. Ho scritto di solito inconsciamente, perché talvolta questo perverso rovesciamento di posizioni è del tutto consapevole, come nel caso di quell'ufficiale superiore dell'esercito israeliano che alla vigilia dell'invasione dei campi profughi palestinesi spiega ai suoi soldati che bisogna imparare dall'esperienza altrui, compreso il modo in cui le truppe tedesche hanno assunto il controllo del ghetto di Varsavia. La memoria ebraica ha trasformato una delle sue pretese basilari in rivendicazione di diritto alla Palestina, eppure è incapace di riconoscere il diritto altrui e di apprezzarne il senso della memoria. Gli israeliani rifiutano di convivere con la memoria palestinese, rifiutano di riconoscerla nonostante uno degli slogan nazionali ebraici sia «Non dimenticheremo». Mantenere la coscienza collettiva in stato di perenne ricordo per polarizzare il sentimento nazionale è una delle materie fondamentali insegnate nella scuola israeliana e la prima nella scala delle priorità sioniste. Ripetono sempre: possa io dimenticare la mia mano destra se ti dimentico, Gerusalemme. Dopo l'Olocausto, a cui gli ebrei europei sono stati sottoposti dal nazismo, il loro motto fondante è diventato: non dimenticheremo e non perdoneremo. Ogni anno gli israeliani commemorano le proprie vittime. Israele si ferma. Ci sono un museo specifico, un insegnamento specifico, un programma specifico per ricordare l'Olocausto alle nuove generazioni. Nel libro di Amos Elon, intitolato Israeliani, c'è un capitolo specifico dedicato a questo argomento che dice: agli occhi della giovane generazione post-sionista, l'Olocausto ha perciò confermato uno dei temi fondamentali del sionismo classico del XIX secolo. Senza un paese proprio, si è la feccia della terra, preda inevitabile delle belve. Nel libro viene riconosciuto il fatto che la politica israeliana strumentalizza l'Olocausto come ricatto emotivo. La cultura israeliana insiste nel saturare i cittadini con le memorie dell'Olocausto avvenute in Europa per acuire la sensazione di esilio e isolamento dal resto del mondo, sensazione essenziale nella psicologia e nel temperamento israeliani. Alimentare la memoria israeliana ha dunque un intento politico preciso: acuire la rivendicazione sionista della Palestina, inculcando negli israeliani la convinzione che la minaccia dello sterminio rimane costante e che tornare a rifugiarsi in terra di Israele è l'unica garanzia di sicurezza storica e politica. Non dimenticare le stragi naziste è un dovere di tutti, non soltanto degli ebrei. Tutti quelli che hanno una coscienza, tutti gli amici della libertà, condividono le vittime del nazismo, commemorandone il ricordo e ricavandone un monito. Specialmente quando nel mondo d'oggi si ripropone la somiglianza storica tra nazismo e movimenti xenofobi. Qualsiasi livello di antagonismo arabo-israeliano si sia raggiunto, nessun arabo ha il diritto di simpatizzare con il nemico del proprio nemico, perché il nazismo è nemico di tutti i popoli e questa è una cosa. Però Israele esagera nello sfogare i suoi rancori su un altro popolo e questa è un'altra cosa, perché il crimine non si riscatta con il crimine. Chiedere ai palestinesi e a qualsiasi altro arabo di pagare il prezzo di crimini che non hanno commesso non può essere il risarcimento dell'Olocausto. Gli israeliani si vantano di fronte al mondo di essere i primi profughi ed esiliati nella storia dell'umanità, fino al punto di trasformare questo attributo in un segno distintivo. Però questi detentori del senso dell'esilio sono completamente incapaci di comprendere che anche altri, oltre a loro, possano possedere lo stesso senso. Non è crudele affermare che il comportamento dei sionisti contro il popolo palestinese è paragonabile alle pratiche naziste applicate contro gli stessi ebrei. Altresì, Non è crudele affermare che il comportamento israeliano e quello del movimento sionista nei rapporti internazionali strappano proprio di bocca il commento «commerciano con il sangue delle vittime ebree». Con i soldi e l'equipaggiamento ricevuti in risarcimento delle vittime del nazismo, uccidono un altro popolo. Dunque, non è crudele nemmeno affermare che il modo in cui Israele commemora le vittime del nazismo è caratterizzato dal ricatto emotivo, in quanto saturare gli israeliani tramite il senso dell'olocausto spinto all'eccesso e contemporaneamente tramite il bisogno di vendicarsi, non del proprio carnefice ma di un'altra vittima, ossia il popolo palestinese, è un obiettivo politico. Il sionista arrogante non si vergogna di vantare che la perdita di 6 milioni di ebrei, o giù di lì, gli è valsa una patria. La società israeliana sta correndo a testa bassa contro il muro. Lottare contro l'occupazione, resistere contro la politica di forza, ostacolare le sinistre prospettive di pulizia etnica e di guerra totale contro il mondo arabo musulmano, ma combattere anche la filosofia della separazione che richiude Israele in un nuovo ghetto, potentemente armato ma pur sempre isolato, mantenere aperte le finestre di cooperazione e di solidarietà per evitare che anche dall'altra parte venga chiusa per sempre ogni prospettiva di coesistenza. È un atto di responsabilità, qualcuno direbbe di amore, far deragliare questa società che sta correndo a precipizio verso la propria distruzione, rifiutando di collaborare se si è israeliani e facendo l'impossibile se si è cittadini del mondo per porre fine a una condizione di impunità che non può che incoraggiare Israele nella sua folle corsa verso Masada. Ci riusciranno, ci riusciremo, è tutt'altro che sicuro, ma è la sola via possibile, perché nella scommessa è in gioco la vita. Take a fucking race for yourself and have a blast. so bad. Worth that money. Make that bad. I still want to fight for some more. Hey. Companies and watch rules are destroyed. Living men that turn to the light. Sick fuck race war and self that breath. Hey. Fuck rock gas with fire and glass. Living men that turn to the light. Still playing the game. Race fights best. Don't say say. Stop the house hungry. Stop the bad. Worth the money. Well, the race that bad. Siamo arrivati al termine anche per questo giovedì sera di Zardins Magnetics. Andiamo a darvi gli estremi per mettervi in contatto con noi altri, e ci sono diversi modi. Il principale è scriverci al mail liberetutti@autistiche.org, è la nostra mail di contatto e anche dell'assemblea permanente contro il carcere e la repressione. Se siete impossibilitati a mandare mail perché state in qualche situazione di restrizione delle libertà, potete scriverci una lettera, una cartolina dove ci magari potete criticarci, potete anche solo salutarci, potete mandarci le vostre considerazioni a questo indirizzo: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste. Inoltre, per ascoltare, oltre a questa puntata di stasera, anche le precedenti degli ultimi anni, abbiamo il blog che trovate all'indirizzo zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Siamo presenti anche con un canale Telegram che si chiama Zardins, lì avrete appunto le anticipazioni degli argomenti della puntata, settimanalmente li mandiamo. Il venerdì stiamo andando in onda già da un po' anche su Radiazione, che è una web radio di Padova che ci rimbalza e che ringraziamo naturalmente, salutiamo. Per questa sera direi che è tutto, noi ci sentiremo di nuovo, sarete di nuovo in ascolto a Zardins Magnetics esattamente tra una settimana, a giovedì prossimo. Un saluto. Ciao. That a feeble race is near. Some spread with prison words, not for 14 years. Fight rights, people who systemic violence. What is death? Just voice, voice, smoke, silence. Another prison here goodbye. Not from me tonight. Not prison victimized. Not from me tonight. Got the FBI. Not from me tonight. Our citizens of the fucking lies. Forgive them till they die.